Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Sono passati 60 anni da quel 21 settembre 1955, una data straordinaria nella storia dello sport mondiale, l'ultimo incontro di Rocky Marciano, forse il più grande pugile di sempre. 49 vittorie in 49 match, 43 KO per quello che è stato il re dei pesi massimi. E questa è la storia che oggi riviviamo a Olimpia, una storia di un campione, ma anche una storia di un grande pezzo, di una grande parte del nostro paese, della nostra Italia. E allora riviviamo la storia di Rocky Marciano e poi nella seconda parte di Olimpia un ospite d'eccezione per parlare ancora di questo fenomenale campione. Che sai fare? Suono la tromba. Li abbiamo già i suonatori a bordo. Via, prossimo. Eh sì, ci si inventava proprio di tutto per mettere un piede a bordo di quelle navi che all'inizio del Novecento attraversavano l'oceano. Perché questa è una storia che va dall'Italia all'America, da un piccolo paesino dell'Abruzzo, Ripateatina, al ring del Madison Square Garden di New York. È la storia di Rocky Marciano, l'unico campione del mondo dei pesi massimi della boxe a ritirarsi imbattuto dopo 49 incontri, di cui 43 vinti per KO. Ma è anche la storia di Rocco Marchegiano, che è poi lo stesso Rocky, figlio di Querino Marchegiano di Ripateatina e Pasqualina Picciuto da Napoli, sbarcati in America tra il 1912 e il 1916 come milioni di italiani ed europei in quegli anni. Contadini, artigiani, braccianti spesso analfabeti, con il dialetto come unica lingua, verso l'America, che è sogno, speranza, futuro. Guardare i grattacieli di New York dalle finestre di Ellis Island, dove gli immigrati arrivavano per affrontare i severi controlli prima di entrare nel nuovo mondo, è un tuffo al cuore. E che sono queste cose là? Pare una torre. Pare una campanara. Ma capace che sono case? Case sono, di 100 piani. Ma come si c'ha chiana? C'è una scatola di legno, là sono i cristiani. A chiana e scinna. Sola! Sola? Sola! La mia casa va a stare in terra. From digging in our pockets for a reason and to say goodbye. These are the hands that built America. Difficile la vita di ogni giorno per chi aveva solo immaginato il sogno americano. Valeria De Cecco è la giornalista che ha ritrovato nei registri di Ellis Island i documenti dell'arrivo relativi ai genitori di Rocky Marciano. Poteva anche capitare che nel viaggio da New York verso Boston, ad esempio, i vagoni che trasportavano gli immigrati venissero sigillati affinché nessuno potesse scendere. Trovavano spesso alloggi di fortuna presso paesani o parenti, però le case erano sovraffollate, per cui poteva capitare di dormire per molti giorni per terra. Poteva anche capitare di dover pagare $6 per dividere mezzo letto, perché non c'erano letti a sufficienza per far dormire tutte le persone che alloggiavano in quella stanza. Querino e Pasqualina si stabiliscono a Brockton, Massachusetts. È qui che il primo settembre 1923 nasce Rocky Marciano. A 16 anni Rocky lascia la scuola e comincia a lavorare. Si arruola nell'esercito e dopo la Seconda Guerra Mondiale torna a Brockton a scavare buche per la compagnia del gas. Ma intanto ha scoperto il pugilato. Non è alto, meno di 1,80 m, né pesante, ma un suo amico, Ellie Colombo, gli organizza un match da professionista a Holyoke. È il 17 marzo 1947. L'avversario, tale Ellis Epperson, finisce KO alla terza ripresa. Ce n'è da lavorare, ma il talento di Rocky è ben visibile a chi se ne intende un po'. Come spiega Emanuela Audisio, giornalista e scrittrice, che a Marciano ha dedicato articoli e studi. Angelo Dundee, che sarebbe diventato più tardi il trainer, l'allenatore di Muhammad Ali, prese in cura anche lui Marciano, che cominciò a sgrezzarsi con un tipo che si chiamava Charlie Goldman, e quando gli dissero di Marciano, gli dissero: un tipo piccolo, dalle spalle curve, con due piedi sinistri, ma con un cazzotto micidiale. L'ascesa di Rocco Marchegiano è irresistibile. Ben presto diventa per tutti Rocky Marciano, ma per la gente sarà soprattutto The Brockton Blockbuster, il bombardiere di Brockton, per l'incredibile forza dei suoi colpi. Non aveva un gran fisico, ma aveva molta, molta voglia di lavorare. Le sue braccia, anzi le clave, secondo alcuni che le soprannominarono così, facevano il resto. Gli insegnarono tutto, ecco, in questo era molto umile. Gli insegnarono a schivare, ad abbassarsi, a inginocchiarsi e appunto, siccome era basso, a colpire da quella posizione. Potenza, grinta, ma anche assoluta dedizione al ring e ai suoi riti. Quel quadrato magico un'ossessione, l'allenamento una religione per Rocky. Camminava molto, per esempio, per 75 isolati, dalla stanza alla palestra, mangiava sempre verdure, beveva pochissimo, solo di sera, portava in tasca un vasetto di miele per addolcire il caffè, masticava la bistecca, però non inghiottiva, sputava i pezzi di carne in una coppa sul tavolo e poi li mangiava lentamente. È stato un pugile ed un uomo, in questo senso, dell'intelligente, moderno. È stato il primo, credo anche l'unico, ad esercitare le pupille, pensate voi, con un pendolo che aveva appeso sul letto e che seguiva con la testa, no? Questo vuol dire, per dire quanto è stato meticoloso. Si allenava 250 round per un solo combattimento, che significa 100 riprese più degli altri. Il lavoro in palestra paga sul ring, nessuno può fermarlo, nemmeno il leggendario Joe Louis, The Brown Bomber. La notte del 26 ottobre 1951, Marciano batte il 37enne Louis al Madison Square Garden di New York. Le fasi decisive del match raccontate da un corrispondente d'eccezione, un giovanissimo Mike Bongiorno. Ecco Marciano che ha colpito con un forte sinistro Louis, proprio nel centro del mento, e Louis è caduto. Louis è ancora fuori di sé e quindi Marciano ha vinto l'incontro per fuori combattimento, per knockout. La strada verso il titolo mondiale dei pesi massimi è libera ora. Il 23 settembre 1952 a Philadelphia, Marciano batte per KO alla 13ª ripresa Jersey Joe Walcott, dopo essere stato messo al tappeto al primo round. Rocky impara la lezione, la rivincita è un match senza storie. Marciano al primo incontro studiava l'avversario e quando per caso lo doveva riaffrontare sapeva subito quali erano i colpi deboli dell'altro e non tirava a lungo. La rivincita con Walcott durò appena 2 minuti e 25 secondi, no? Un pugile che ti picchiava a sangue, però un uomo che poi ti abbracciava, veramente una box da glass operaia, tanto sudore, tanto allenamento e niente paradiso. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Il 17 giugno 1954 è lo Yankee Stadium a ospitare la sfida tra Marciano ed Ezzard Charles, lo sparviero di Cincinnati, già campione mondiale dei massimi tra il 1949 e il 51. Sul ring è battaglia durissima. Alla fine Marciano ha la meglio ai punti, come testimonia l'audio di ESPN Classic Sport. That was Ruby, wait a minute. That was Ruby Goldstein's vote. 8-5 and 2 even. His judge, Adi Aidawa, scores at 9-5, 1 even, favor of Marciano. Vittorie, successo, fama, denaro. Marciano diventa un mito, ma un boccone appetibile anche per i mafiosi italoamericani, che sulle scommesse e i match truccati basano il loro guadagno e il loro potere. Ma Rocky manda al tappeto anche loro, ancora Emanuele Audisio. Nel 55 gli chiesero di vendersi appunto l'incontro contro l'inglese Don Cockell, dicendogli: ti diamo un sacco di soldi, non ti preoccupare, ti rifarai nella rivincita. Lui li ha cacciati fuori dalla stanza e ha gridato: mi fate schifo, vergognatevi di essere italiani. Il match finì alla nona ripresa con questo inglese Cockell che strisciava per terra in cerca delle braccia gentili dell'arbitro. A quel punto i mafiosi si convinsero che Rocky doveva restare pulito per tutti gli sporchi del mondo. Insomma, da Chicago, da Milwaukee, da Philadelphia arrivò l'ordine: keep him clean, tenetelo pulito. 49 incontri, 49 vittorie. L'ultima arriva il 21 settembre 1955 contro l'emergente Archie Moore, che pure manda KO Rocky prima di arrendersi. Marciano capisce che è il momento di dire basta. A 32 anni è l'ora di chiudere la carriera imbattuto. Il campione scende dal ring. Rocky Marciano ritorna ad essere Rocco Marchegiano, con le sue virtù e i suoi vizi. Non fu un uomo fedele, era un uomo molto, molto, dire, tentato dal sesso. La sua ossessione erano le ragazze, e soprattutto, insomma, le minorenni. Si disse anche che il 31 agosto del 69, proprio un giorno prima di compiere 46 anni, Marciano, che viveva in Florida a Fort Lauderdale, chiamò la famiglia dicendo che appunto avrebbe fatto tardi, però che sarebbe arrivato in tempo per il compleanno. Prese, nonostante ci fossero minacce di nubi e di temporali, un passaggio su un Cessna 127, perché gli avevano detto che appunto che in questo posto dove andava a fare delle conferenze c'era una 17enne così in premio. Quell'aereo da Chicago a Fort Lauderdale non atterrerà mai. Chi volava con Marciano affittò un pilota che in realtà, pensate, faceva l'impresario edile, cioè aveva volato pochissimo di notte, aveva solo 35 ore all'attivo, per cui l'urto di questo Cessna, quando arrivò il temporale, vuol dire di sera, che urtò contro una quercia in un campo di grano, fu assolutamente violento. E quando la polizia suonò di sera alla porta, vuol dire, di casa, trovò le torte con gli ospiti, con la candelina in mano, insomma, perché tutti quanti appunto aspettavano la festa del compleanno di Rocky Marciano. La vita di Marciano si chiude con quello schianto. A sopravvivere però ancora oggi è il mito del bombardiere di Brockton. Olimpia, miti e verità dello sport. Queste furono le mani che costruirono l'America, cantavano qualche anno fa gli U2 in uno splendido film, Gangs di New York, con Daniel Day-Lewis protagonista. Ebbene, le mani che costruirono l'America le abbiamo sentite nella prima parte di Olimpia, furono anche quelle della famiglia di Rocky Marciano e di tanti altri italoamericani che all'inizio Novecento cominciarono a sbarcare verso la nuova frontiera, e sacrificando tanto, sacrificando le loro vite, le loro esistenze, ma al tempo stesso scoprendone una nuova, scoprendo nuove speranze per costruire un paese. Rocky Marciano lo costruì, il suo destino e la sua fortuna a colpi di pugni, e che pugni, sui ring di tutta America e di tutto il mondo. E oggi di questo straordinario campione parliamo, come avete ben capito, perché? Perché sono 60 anni dal suo ultimo match, era il 21 settembre del 1955, questa la data, e questo, sentite il brano che vi leggo, Yankee Stadium di New York, la sera del 21 settembre 1955. Rocky Marciano davanti a 62.000 spettatori, oltre ai 400.000 che seguono il confronto a circuito chiuso, 192 sale nelle maggiori metropoli americane e non meno di 250 milioni di sintonizzati sulla radio, difende lo scettro mondiale Massimi contro l'anziano Archie Moore. Il campione ha compiuto da pochi giorni 32 anni, lo sfidante si avvicina alle 42 primavere. Nonostante l'abisso anagrafico, l'attesa per questo confronto è altissima. I pronostici strizzano l'occhio al detentore, che presenta un ruolino di marcia immune da sconfitte, 48 vittorie consecutive, titolare dal settembre del 1952, ha spazzato via tutti i pretendenti. Nonostante queste premesse, molti esperti ritengono che l'Old Mangoose, la vecchia mangusta, cioè Archie Moore, abbia più di una freccia all'arco per causare danni. E questo l'incipit del capitolo che a questo straordinario match dedica il nostro ospite Giuliano Orlando, o Rocky Giuliano direi, no? Forse firma ancora più conosciuta, perché direi tu sei ormai la prima, sei da sempre, anzi adesso auguri perché fai da poco, fra poco compi 50 anni di carriera giornalistica. Benvenuto Rocky. Vi ringrazio e un saluto anche agli ascoltatori di Radio 24. Rocky Marciano, The King, questo è il libro pubblicato da Rocky Giuliano e dedicato al grandissimo campione, edito da Libreria dello Sport. Dicevamo di quella straordinaria sera, 21 settembre 1955, un match straordinario tra Rocky Marciano all'ultimo combattimento della propria carriera ed Archie Moore, che tra l'altro dopo quel match continuerà a lungo, no? Perché la mangusta altri 10 anni buoni di carriera li spenderà, e come? Infatti Archie Moore è stato uno dei pugili più longevi in assoluto a livello mondiale. Dopo quella sconfitta continuerà a restare campione del mondo dei medio massimi, che era a fondo la sua categoria naturale, come tutto sommato naturale sarebbe stata anche quella dei medio massimi per Rocky Marciano, che non era un massimo, veleggiava nei massimi soltanto perché aveva qualità straordinarie che mise in risalto nel corso di una carriera iniziata tra lo scetticismo generale, pur avendo sostenuto ad esempio un'attività dilettantistica di vertice, sfiorando addirittura la possibilità di arrivare a combattere ai giochi del 1948 a Londra. Torniamo a quel match. Archie Moore riesce nell'impresa non da poco di mandare al tappeto Marciano. Quando succede? Succede nella seconda ripresa in modo veramente drammatico. Rocky Marciano non era abituato ad andare al tappeto, soltanto Joe Walcott era riuscito a fare la stessa cosa, dopodiché pagò terribilmente. E in effetti Archie Moore mise al tappeto con un destro terribile Marciano, che poi confessò con molto candore e con la sincerità tipica di questo personaggio. Dice: per un lungo periodo vedevo le cose offuscate, come se davanti a me ci fosse un vetro dove pioveva e mi offuscava la vista. Poi piano piano ho ripreso e ho detto a me stesso: Rocky, tu non puoi perdere. In effetti questa è stata la sua ideologia. Fin da ragazzo non metteva in conto la sconfitta. Rocky si è costruito match su match, fatica su fatica, sudori e applicazione. Ha avuto la fortuna di trovare un grande maestro, Goldman, a sua volta pugile di origine polacca, che lo ha capito. Non ha mai voluto cambiare la sua impostazione, ma ha solo cercato di sfruttare al meglio le caratteristiche che aveva, compreso un destro devastante. Dopo quel colpo di Archie Moore, anche Goldman all'angolo comincia ad avere qualche dubbio. No, più che dubbio gli ha detto: aspetta, abbi pazienza, ragiona, non farti prendere dalla fretta, perché questo match lo dobbiamo vincere. Difatti il match lo ha vinto prima del limite, mandando al tappeto un Archie Moore che stava soffrendo già da diverse riprese, tant'è vero che l'arbitro si avvicinò all'angolo e gli disse: Archie, vuoi smettere? Dice: guarda che qui non siamo alla fiera di beneficenza, questo è un campionato del mondo e io voglio giocarmelo fino alla fine. La fine che arrivò, Rocky Marciano in quell'occasione portò qualcosa come una ventina di colpi consecutivi che fecero crollare alle corde il buon Archie Moore, incapace di rialzarsi. Comunque onore anche allo sconfitto. Eh beh, anche perché poi tutto il resto della carriera dimostrerà, anche quello che ha fatto fino ad allora, dimostrerà la grandezza del rivale. Non a, insomma, i grandi campioni lo sono spesso anche per il livello dei rivali che battono. Certamente, no? Ma infatti Archimur è considerato il più grande medio massimo della storia. Qual è a 60 anni di distanza l'eredità che lascia quell'incredibile match, l'ultimo match di Marciano contro quel grande campione che fu Archimur? Non solo lascia un, diciamo, anche una certa amarezza, perché purtroppo in questo momento l'America non ha grandi pesi massimi, ma sono la testimonianza di una vitalità eccezionale da parte di questi nuovi americani e in particolare di Rocky Marciano, che inizialmente era soltanto un figlio di migranti e alla fine divenne il simbolo dell'America, tanto che in una ricerca tra i personaggi più popolari Rocky Marciano venne equiparato a Joe DiMaggio e all'allora presidente Roosevelt. E allora Rocky Marciano, The King, edito dalla Libreria dello Sport, questa è la lettura che mi sento davvero di cuore di suggerirvi oggi, e ringraziandone l'autore Giuliano Orlando, grazie per essere stato oggi qui ad Olimpia, la città dello sport, e di averci fatto rivivere la leggenda, il mito di Rocky Marciano. Grazie a voi. Anche per l'appuntamento odierno con Olimpia è tutto, un grazie ad Andrea Roccabella in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast dal nostro sito radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend, Olimpia torna come sempre domenica prossima dalle 16:30. Ancora una buona domenica da Dario Ricci.